Leggendo questo Vangelo io mi sono imbattuto in questa frase. Che cosa vuoi che io faccia per te? Cioè Gesù chiede a questo cieco: io ti voglio fare un regalo, tu me lo chiedi, io te lo voglio fare. Che cosa vuoi? E quest'uomo cieco da sempre evidentemente gli chiede: fa che io veda. Immaginiamo se non è la cosa più grande questa. Ma io riflettevo anche per me, dicevo, se il Signore mi chiedesse questo: Ambrogio, ti voglio fare un regalo, che cosa mi chiederesti? Se io fossi cieco gli direi: Gesù, dammi due colpi da sparare, dai, non uno solo, perché è chiaro che io ti chiedo di venire con te, di vedere il tuo volto per sempre, però intanto voglio vederlo anche fin da adesso, perché sono cieco. Ecco, se il Signore mi chiedesse questo o lo chiedesse a voi, non chiedete poco, non chiedete la promozione a scuola di un figlio, non chiedete il lavoro, no? Sono cose tutte importantissime, non chiedete la casa, cose tutte importantissime. Se c'è una gravissima malattia di uno giovane, si può chiedere la salute. Questo era cieco, era giovane, faceva bene a chiedere la vista. Però non dimentichiamo che poi tutto questo passa. La casa passa, la salute passa. Questo Bartimeo dovrà morire di nuovo. Persino Lazzaro, che era stato risuscitato, poi avrà dovuto morire di nuovo. Allora io gli chiederei questa cosa: Signore, che io stia con te sempre. Che vuol dire stare con te adesso, prima cartuccia, e possa stare con te alla fine della mia vita sempre. E questo ci fa comprendere, almeno a me fa comprendere, quanta gente c'è in giro che neanche si sogna di chiedere questo, perché non lo conosce Gesù. Ma non parlo solo del Giappone, dove non sanno neanche che Gesù Cristo è esistito. Parlo della nostra gente, parlo dei battezzati, parlo dei nostri figli, che dopo essere stati battezzati loro non battezzano magari i loro figli, che non sanno come seguire Gesù. Chiediamo per noi e per tutti, Signore, che io possa vederti oggi e in eterno.